Generazione Mobile. Studiare e lavorare nel mondo. Di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con Generazione Mobile, studiare e lavorare nel mondo. Opportunità per ingegneri nell'Europa del Nord. Questo è il tema che portiamo oggi in onda, certi di potervi offrire anche questo sabato una radio di servizio e al vostro servizio per consentirvi di cercare e trovare la vostra opportunità oltre confine. Lo faremo con le testimonianze, come anticipato, di due giovani ingegneri, uno lavora in Germania, l'altro in Danimarca. Entrambi si sono messi a vostra disposizione per fornirvi quanti più consigli utili su come avviare un percorso di carriera in paesi conosciuti e apprezzati per gli elevati salari e l'alta qualità della vita. Il volontariato internazionale, quale esperienza formativa all'estero alternativa a studio e lavoro, sarà al centro della rubrica Toolbox, all'immancabile cassetta degli attrezzi di Generazione Mobile. Cercheremo di fare una panoramica esaustiva di tutte le opportunità disponibili. Di impiego in Europa parleremo invece più avanti, nel consueto appuntamento bimensile con Eures Italia, come sempre in Job Abroad. E a chiudere la panoramica delle opportunità all'estero arriverà Mario Gastaldi con i suoi consigli sui paesi più interessanti dove aprire un'attività imprenditoriale. Lo farà come sempre in Imprenditori Globali. E allora stacchiamo il biglietto per Monaco di Baviera, città che qualcuno definisce ancora oggi la metropoli più a nord d'Italia. Generazione Mobile. Lo spunto della settimana arriva dalla ormai consueta classifica delle migliori università mondiali, stavolta in termini di occupabilità. Secondo il QS Graduate Employability Ranking, è il Massachusetts Institute of Technology il primo ateneo al mondo per occupabilità dei suoi laureati. Al secondo posto la Stanford University, mentre la University of California, UCLA, si trova al terzo. Al sesto posto del ranking figura il miglior ateneo asiatico, la cinese Tsinghua University. La migliore università dell'Europa continentale è l'ETH di Zurigo, 17° posto. In Italia primo il Politecnico di Milano, seguito dall'Università di Bologna e dalla Sapienza di Roma. Toolbox. Toolbox, la nostra cassetta degli attrezzi settimanale concepita per fornirvi tutte le istruzioni necessarie per intraprendere un percorso all'estero, si concentra oggi sul volontariato. Sono tanti i programmi disponibili per giovani che cercano una terza via oltre confine rispetto a studio o lavoro, e per fare un po' di chiarezza siamo andati a capire quale valore aggiunto questi progetti possono portare nel background formativo di ciascun ragazzo o ragazza che vi prende parte. Tra le associazioni di settore c'è Lunaria, ente che ogni anno coinvolge circa 1000 volontari in campi internazionali. Marcello Mariuzzo, presidente di Lunaria. I principali programmi che sviluppiamo, promuoviamo e proponiamo ai volontari italiani sono il programma dei campi di volontariato, quindi esperienze brevi di 2 o 3 settimane in cui un gruppo internazionale si incontra, persone quindi che vengono da tutto il mondo, si incontrano ospiti di una comunità locale e svolgono un lavoro di diverso tipo. È molto importante per la comunità, perché viene proposto dalla comunità, non viene confezionato a tavolino, ma le comunità ospitanti chiedono aiuto di gruppi di volontari internazionali. Ogni anno la nostra rete coinvolge circa 15.000 persone, Lunaria coinvolge 500 ragazzi e non giovani e meno giovani italiani, che partono prevalentemente per l'Europa. Altri programmi sono il Corpo Europeo di Solidarietà, che permette di un periodo più lungo di svolgere un'attività di volontariato in Europa, ma non solo, ma prevalentemente in Europa, sostenuto dal programma europeo, della Commissione Europea, appunto degli ESC, European Solidarity Corps, che permette di stare fino a un anno in una comunità, in un progetto fuori dall'Italia, svolgendo volontariato e imparando moltissime cose, tra cui la lingua locale ovviamente. Lunaria poi promuove anche altri progetti in giro per il mondo, simili al Corpo Europeo di Solidarietà ma autofinanziati, quindi la comunità ospitante attraverso la nostra rete di associazioni in tutto il mondo chiede l'aiuto di 1, 2, 3 volontari per portare avanti i progetti di più a lungo periodo. Parlando di ragazzi giovani, quindi intorno ai 20 anni, studenti universitari oppure appena laureati, quali sono i requisiti normalmente da avere per poter partecipare a questi programmi? E c'è comunque anche un sostentamento, un chiamiamolo pure stipendio, per potersi mantenere in questi luoghi? Allora, essendo volontariato e non progetti di cooperazione specialistica, come il volontariato normale, e sono aperti prevalentemente a tutti, cioè non abbiamo una selezione su competenze o esperienze pregresse. È vero, alcuni progetti sì richiedono delle competenze pregresse, ma sono veramente una piccola parte, quindi chiunque può partecipare. Ovviamente laddove ci sono dei finanziamenti, soprattutto per la mobilità, quindi per il viaggio, è possibile chiaramente veramente non metterci neanche un euro. Il programma del Corpo Europeo di Solidarietà permette di avere un piccolo pocket money, quindi oltre al vitto e all'alloggio che è garantito su tutti i progetti, c'è un pocket money, vale a dire per le spesette quotidiane, c'è cioè una sorta di diaria, come il servizio civile in qualche modo. Però non è un volontariato da professionista, è un volontariato da persone che vogliono mettersi a disposizione della solidarietà, dei beni comuni, dell'impegno verso il patrimonio culturale e artistico della comunità che li ospita. La durata media di questi programmi qual è? Ma ce n'è per tutti i gusti, ci sono progetti molto brevi di 10 giorni, quindi d'estate prevalentemente, e lì mobilitiamo tantissime persone perché ovviamente sfruttano il tempo libero anche tra un esame e l'altro, o tra o le ferie o le vacanze. E poi ci sono progetti, come vi dicevo, dai 2 mesi fino ai 12 mesi, quindi dipende proprio da che periodo di vita si sta facendo, si sta vivendo e che aspettative si hanno sul dopo. In che modo il volontariato può essere un'esperienza che ha delle ricadute e un impatto positivo sulla carriera successiva? Beh, noi abbiamo fatto anche delle ricerche in tal proposito e abbiamo visto come i datori di lavoro sono comunque sia molto interessati alle esperienze di mobilità per volontariato all'estero, perché queste danno delle competenze trasversali molto molto importanti, e le competenze sono sia di senso civico sia di impegno, di serietà e di efficienza anche in un lavoro con un obiettivo. Vengono molto valorizzate e consigliamo a tutti di metterle nel curriculum, perché sono esperienze uniche in cui si vede la voglia di sfidarsi, la voglia di mettersi in qualche modo anche a disposizione di attività impegnative, quindi sicuramente vengono valorizzate. I programmi europei hanno un dispositivo che si chiama Youth Pass, che permette di valorizzare quello che si è imparato. Per tutte le info potete cliccare su www.lunaria.org. Il testimone. Il testimone della settimana è un ingegnere ambientale 33enne che, dopo un'esperienza postdoc in Canada, si è trasferito a lavorare in Germania. Consigli davvero preziosi in arrivo da parte di Massimo, sia che vogliate dare un'occhiata alle opportunità accademiche aperte in Nord America, sia che vogliate considerare la ricerca di un lavoro in ambito tecnico all'interno del paese locomotiva d'Europa. Buon pomeriggio, Massimo Collotta. Buon pomeriggio, Sergio. Laurea in ingegneria gestionale con dottorato all'Università di Brescia in collaborazione con la Queen's University in Ontario e postdoc sempre in Canada. Massimo, partiamo dalle tue esperienze accademiche. Consigli un percorso universitario all'estero? Certamente, perché non solo apre la mente, ma poi ti permette di affrontare problemi in maniera diversa, si va a affrontare nuove culture, nuove tecnologie, nuove innovazioni. Come si trova un dottorato in Nord America? Attraverso la propria università di origine o anche con una candidatura diretta? Questa è una bella domanda. Sì, ci sono le due vie principali, sono un'application diretta sull'università di interesse, oppure attraverso un network, che deve essere un network che ti devi costruire te. Nel mio caso ho avuto questa opportunità durante una conferenza internazionale dove ho conosciuto il mio supervisor canadese. Anche quelle sono occasioni importanti. Quali università o città universitarie consigli per fare un dottorato in Canada? Essenzialmente si possono dividere in West Coast, dove c'è la zona di Vancouver con la UPC, e la zona del Calgary, dove c'è l'Università dell'Alberta, come la zona est, dove c'è in Ontario, dove si può andare a Toronto, o come a Kingston, dove abbiamo la Queen's University, oppure in Quebec con Montreal. E a livello di visto com'è? Come la mettiamo? Il visto è un po' particolare, perché se hai un corso inferiore ai 6 mesi non c'è bisogno di visto, però se hai superiore ai 6 mesi devi avere un permesso di studio in cui devi avere l'invito da parte dell'università, poi dopo andare ovunque, però devi dimostrare di essere iscritto a questo corso, avere fondi abbastanza, non avere condanne, essere in buona salute. Chiaro. E dalla carriera accademica, che hai concluso con un postdoc, a quella aziendale, allora innanzitutto cosa ti ha portato a cambiare settore e paese dal Canada fino alla Germania? Ma essenzialmente cercavo nuove motivazioni, opportunità in più, cercavo di capire se i modelli di analisi della sostenibilità potevano essere applicati non solamente nell'ambiente accademico ma anche in ambiente corporate. Dopo un breve periodo in Texas ho avuto questa opportunità in Germania per un'azienda sempre americana, e di conseguenza mi sono trasferito in Germania. E come hai trovato lavoro? Ci sono anche dei siti che consigli per trovare lavoro da ingegnere in Germania? Sicuramente il sito principale è LinkedIn, dove si possono trovare a livello globale, però per l'ambiente tedesco consiglio Xing, che è proprio specifico per la zona tedesca, quindi anche Svizzera, Austria e Germania. Ora di cosa ti occupi? E dove sei soprattutto? Ora sono di base a Monaco e sono l'ingegnere responsabile per la sostenibilità, una delle più grosse multinazionali americane dei fornitori d'ufficio. In poche parole mi occupo di, nello specifico, di Life Cycle Assessment e Environmental Product Declaration, che sono essenzialmente le analisi degli impatti ambientali sui prodotti durante l'intero ciclo di vita. Che consigli vuoi dare sia per preparare il curriculum sia anche per affrontare il colloquio di lavoro in Germania? Il curriculum deve sottolineare le tue soft, le tue hard skills, ma non in maniera molto specifica, io direi in maniera essenziale. E poi specificare un po' dove vuoi andare, un po' il tuo futuro, dove vuoi andare a investire le tue competenze. Sicuramente in inglese, e nello specifico per questa zona tedesca, anche una parte, un CV in tedesco potrebbe essere importante. E il colloquio? Il colloquio nel mio caso è stato abbastanza lungo, perché parliamo di un'azienda americana e quindi credo di trovare un referente qui in Europa. Quindi ho avuto una prima fase di colloquio con l'HR, poi direttamente una con l'hiring manager, un'altra fase di colloquio con il team e poi l'ultima fase, un face to face con entrambi, quindi parliamo di 6-8 mesi di intervista. Però, in generale, quali città vedi interessanti in Germania per trovare lavoro nel tuo settore e anche quali Länder? Insomma, la Germania è ancora un paese affamato di ingegneri. Sì, nello specifico nella Baviera parliamo della zona di Monaco, la zona di Norimberga, quindi e poi nel mio campo, quindi nel campo sostenibilità, è un tema trasversale che può passare dai settori IT, per le varie start-up, anche nell'automotive, nel bio, nella farmaceutica. Ci sono tutti questi settori, sono affamati di ingegneri. Un esempio, qua a Monaco la disoccupazione è il 2%, quindi il problema è che se non sei specializzato e non sai un minimo di tedesco è un po' difficile. Chiaro. Generazione Mobile si ferma per un attimo, ci sono Strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Generazione Mobile. Studiare e lavorare nel mondo. Bentornati a Generazione Mobile, il programma di Radio 24 che vi fornisce tutti gli strumenti utili per avviare la vostra nuova vita all'estero. Al centro di questa puntata la testimonianza di Massimo Collotta, ingegnere ambientale 33enne, a lavoro in Germania dopo un'esperienza universitaria in Canada. Tra Europa e Nord America, tra azienda ed accademia, la strada che traccia oggi Massimo può essere di grande ispirazione per tutti voi all'ascolto. Generazione Mobile. Un'ultima cosa, la vita a Monaco e Baviera, i siti per trovare case e anche che costi aspettarsi per gli affitti. Certo, la vita è abbastanza costosa qua a Monaco e per trovare alloggio è uno dei problemi più grossi. E ci sono due siti principali, uno è Immobilier Scout Firon Zanzig e l'altro per cercare le WG, che sono diciamo gli appartamenti condivisi, suggerirei WG Gesagt. E dal punto di vista dei costi si può arrivare anche a 1000 euro per 25 metri quadrati. Ci raggiunge ora in linea Mattia Saccoccio, ingegnere anche lui, ma lavoro in Danimarca. Buon pomeriggio Mattia. Buon pomeriggio Sergio. Allora, la tua esperienza all'estero comincia fin dalle scuole superiori con un anno di scambio studentesco negli Stati Uniti, poi una carriera internazionale Politecnico di Milano con programmi doppia laurea in partnership con la Technische Universität di Monaco, dottorato a Hong Kong, ricercatore in azienda in Germania fino alla tua professione attuale. Di cosa ti occupi e dove? Qui a Copenaghen sono ricercatore alla DTU, l'Università Tecnica di Danimarca, nell'ambito dell'ingegneria energetica, che è proprio la disciplina che ho studiato sia in Germania che in Italia. Nello specifico mi occupo di sintesi elettrochimica dell'ammoniaca, che oggi come oggi viene prodotta facendo affidamento ai combustibili fossili, ma in futuro si spera di poter produrre dall'energia elettrica. Mattia, andando sui tuoi consigli, allora ovviamente tu consigli di fare esperienza all'estero fin dagli studi, lo vediamo dal tuo curriculum, e però consigli anche di esplorare mete meno gettonate rispetto alla massa, perché? Esatto, io consiglio di esplorare sia mete diciamo più popolari, io per esempio sono stato in Germania, negli Stati Uniti, però anche mete meno gettonate, come per esempio mi è capitato di passare degli anni a Hong Kong, e questo per avere più stimoli, anche per potersi differenziare poi sul mercato del lavoro. E come trovare lavoro nel Nord Europa? Ci sono dei siti che consiglio o dritte anche che vuoi regalare ai nostri ascoltatori? Sì, allora, nel Nord Europa, nello specifico in Danimarca, si possono utilizzare siti come appunto LinkedIn, che ha già nominato Massimo, che funziona bene anche in Danimarca. E poi c'è un altro sito chiamato jobindex.dk, dk sta per Danimarca, in cui si possono trovare anche lavoro. Poi ci sono due siti che vorrei consigliare. Uno si chiama Working Denmark, il quale dà un sacco di consigli per stranieri che si trasferiscono in Danimarca e vogliono trovare lavoro, e l'altro è International House, che è soprattutto per chi vuole andare a Copenaghen, dove ci sono per esempio incontri e workshop per chi vuole trovare lavoro. Come consigli sul come trovare lavoro e come approcciarsi alla ricerca del lavoro in Danimarca, direi che inizialmente si può contare sull'inglese, tutti parlano inglese, i colloqui possono essere fatti in inglese, i curriculum possono essere mandati in inglese. Poi chiaramente chi vuole rimanere sul lungo periodo dovrà imparare il danese. Per quanto riguarda proprio consigli pratici, quello che mi ha stupito in Danimarca è che è normale chiamare un'azienda prima di mandare un curriculum per controllare con quello che sarà il futuro capo le specifiche del posto di lavoro, e poi i colloqui sono più informali di quelli che per esempio ho visto sia in Italia che in Germania, sia dal punto di vista di come magari ci si veste, non so, giacca e cravatta in certi ambiti di lavoro nel colloquio non viene quasi apprezzata, e anche proprio per come ci si rapporta con le persone che ci faranno il colloquio. L'ultimo consiglio che posso dare è quello di fare molto networking. La Danimarca è un paese piccolo, sono 5 milioni di abitanti, e diciamo le attività produttive si concentrano a Copenaghen, che è una città di 1-3 milioni di abitanti, e quindi lì si conoscono un po' tutti. Ecco che se uno si trasferisce magari prima di cercare lavoro, consiglio quello di fare un forte networking. Grazie a Mattia Saccoccio. Abbiamo la nostra domanda a diritto per Massimo Collotta. Quale primo consiglio pratico daresti a un giovane coetaneo che sta pensando a un espatrio? Prima di tutto essere se stessi e mettersi in gioco, aver voglia di conoscere qualcosa di nuovo, cercare di mettersi in gioco nel senso di non avere paura di uscire dalla comfort zone, ma cercare di poter andare alla ricerca del diverso, di nuove tecnologie, di nuove innovazioni. Job Abroad. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Nuovo appuntamento con le offerte e le iniziative in Europa insieme all'agenzia Eures Italia, Bernadette Greco di Eures Italia. Questa volta l'offerta viene dalla Garden Hotels, che è una rete di alberghi e hotel 3-4 stelle spagnoli, che offrono un'opportunità di lavoro ad animatori sportivi, animatori per intrattenimento bambini ed adulti. I Garden Hotels si trovano in diverse località della Spagna, Ibiza, Minorca, Mallorca e diverse località in Andalusia. I profili ricercati sono dell'animatore sportivo, e per far questo bisogna avere un percorso educativo in scienze motorie e soprattutto conoscere le attività tipiche dei villaggi turistici e attività di intrattenimento, quali ad esempio aerobica, steps, nordic walking, tai chi, body pump, body balance, eccetera. E per quanto riguarda invece animatori bambini e adulti, si richiede un percorso formativo in scienze della formazione e con particolare sviluppo di doti quali soft skills e quindi capacità di intrattenimento, di coinvolgere il pubblico, un occhio particolare per i più piccoli. Oltre a questo requisito puramente tecnico, c'è un percorso formativo scienze dell'educazione, scienze motorie rispettivamente, è fondamentale il requisito linguistico. Infatti per candidarsi occorre avere una conoscenza della lingua inglese approfondita, non inferiore al B2, poiché la clientela è una clientela internazionale. Ogni ulteriore lingua europea posseduta naturalmente è considerato un asset per il candidato. Le selezioni si svolgeranno rispettivamente a Bari e a Torino, presso i servizi Eures, a Bari il 4 febbraio e a Torino il 6 febbraio. E per candidarsi occorre necessariamente inviare un CV in inglese, formato Europass con foto, ai seguenti indirizzi. Per la selezione che si svolge a Bari, a eurespuglia@regione.puglia.it, e per la selezione che si svolge a Torino, eures@agenziapiemontelavoro.it. In cosa consiste l'offerta? L'offerta consiste in un contratto stagionale, secondo la normativa nel settore vigente in Spagna, nel settore del turismo alberghiero, con uno stipendio lordo tra i 1.400 e i 1.500, con copertura sociale e assicurativa, questo ci tengo a sottolinearlo, e naturalmente vitto alloggio a carico dell'albergo. Inoltre è necessario dare la disponibilità per 6 mesi, poiché il contratto è di 6 mesi, e si ha un periodo di formazione che si svolge nel mese di aprile, durante il quale tutte le spese sono a carico sempre dell'albergo, però non vi è retribuzione. Internet Point. E siamo giunti ad Internet Point, lo spazio di Generazione Mobile dedicato ai siti, ai blog e alle informazioni utili in rete create dagli italiani all'estero. Torna a Imprenditori Globali, lo spazio mensile di consigli su come andare a fare impresa all'estero. E torna con noi anche Mario Gastaldi, consulente internazionale e creatore del gruppo Facebook L'Arte dell'Espatrio Ragionato. Mario oggi ci porta a San Marino. Sentiamo. A volte cerchiamo lontano, ma la soluzione è in effetti vicino, di fronte ai nostri occhi. E molti imprenditori globali italiani spesso non vogliono mettere migliaia di chilometri tra sé e la propria città e vogliono anche continuare a parlare italiano. Così oggi andiamo vicino. Con una legge recentissima, la Repubblica di San Marino ha lanciato uno schema di residenza legato alle imprese ad alto contenuto tecnologico. Si tratta di costituire una società di diritto sammarinese e ottenere la certificazione di impresa ad alto contenuto tecnologico dall'agenzia San Marino Innovation. La certificazione viene messa in seguito ad una verifica del grado di innovazione del progetto, della sua solidità economica, finanziaria, del profilo dei founders e del valore aggiunto per la Repubblica di San Marino. Quali sono i vantaggi per gli imprenditori? La certificazione offre la residenza a San Marino agli amministratori ed ai loro familiari e, seguendo i passi giusti, è possibile anche ottenere la residenza fiscale e pagare le imposte sul reddito della persona a San Marino con le aliquote sammarinesi. Gli amministratori e i familiari hanno diritto alle stesse prestazioni di assistenza sanitaria garantite ai cittadini sammarinesi. Il trattamento fiscale dei redditi della società è molto vantaggioso, poi. Le imprese sono classificate in tre tipi a seconda del grado di innovazione tecnologica. E le imposte vanno dallo 0% per le start-up tecnologiche di primo livello, al 4% per quelle di secondo livello, all'8% per i primi 5 anni per le società altamente tecnologiche. E le plusvalenze dalla cessione delle partecipazioni sono esenti da imposte. Per quanto riguarda i collaboratori, sono previste varie forme di agevolazione e flessibilità per l'inserimento di collaboratori, tra questi i rapporti di CocoPro e Work for Equity. Oltre agli importantissimi vantaggi fiscali che permettono all'iniziativa di crescere davvero ed in fretta, la nuova impresa entra a far parte dell'ecosistema di San Marino Innovation, con la possibilità di partecipare alle loro iniziative istituzionali e di aggregazione tecnologica. Fare imprese all'estero, in un paese lontano, parlando un'altra lingua, immerso in un'altra cultura, non è per tutti. A San Marino, a un passo da casa, potete cogliere le opportunità di un sistema fiscale che vi aiuta a far crescere rapidamente il vostro progetto. Chiudiamo la puntata con i nostri input. Per interagire con noi, innanzitutto, ci trovate online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook, nel gruppo Generazione Mobile Radio 24 o nella pagina Generazione Mobile. Siamo presenti anche su LinkedIn, sempre col gruppo Generazione Mobile. Ricordate di scaricare i nostri podcast, lo potete fare direttamente dal sito di Radio 24. Questo vi permetterà di recuperare tutte le informazioni utili che potreste esservi persi nel corso della diretta. Internet Point resta la vostra rubrica di riferimento. Ogni ultimo sabato del mese portiamo le vostre lettere in onda. Avete domande da porre sull'Espatrio? Consigli utili da chiedere o testimonianze personali da offrire? Scriveteci generazionemobile@radio24.it. Infine, la nostra trasmissione vive grazie anche ai nostri testimoni, giovani tra i 18 e i 40 anni che ci raccontano il loro espatrio, le loro esperienze di studio, stage, lavoro, imprenditoria all'estero. Volete portare la vostra testimonianza, raccontare la vostra storia e soprattutto dare consigli utili ai vostri coetanei che in Italia vi ascoltano? Fate parte della nostra Generazione Mobile? Scriveteci e porteremo la vostra voce sulle frequenze di Radio 24. Per candidarsi basta scrivere a generazionemobile@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Generazione Mobile, aspetto dunque i vostri contributi via email e vi ricordo anche che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30 sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.